Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sud-est asiatico. Una sigla fredda, impersonale, spoglia. Dentro e dietro di essa si cela uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Un luogo che sembra cristallizzato in una contraddizione perenne e fuori dal tempo, quella tra la profondità della meditazione e la violenza dei feroci conflitti che hanno da sempre ferito questa regione. Laos, Vietnam, Cambogia. Tre stati vicini, confinanti. Molti ne avranno sentito parlare per le guerre che li hanno colpiti a partire dagli anni 60. Eppure ci sono bellezze uniche, tesori da scoprire, zone di intensa spiritualità, dove l'aspirazione dell'uomo al trascendente pare essersi fusa con l'imponenza vitalistica della natura. Oggi Destini Incrociati vi racconta una storia ambientata proprio in uno di questi luoghi, la Cambogia. La Cambogia è uno stato di quasi 15 milioni di abitanti, incastonato tra Thailandia, Vietnam e Laos e bagnato dal mare del Golfo del Siam. Oggi è una monarchia costituzionale pacifica che a fatica sta cercando di lasciarsi alle spalle un incubo terribile iniziato circa 30 anni fa. Fino al 1953 la Cambogia fa parte della cosiddetta Indocina, un territorio coloniale francese che riunisce diversi stati confinanti. Il 9 novembre di quell'anno, Norodom Sihanouk diventa il nuovo capo di stato della nazione cambogiana finalmente indipendente. Sihanouk, con la carica di principe, rimane al potere fino al 1970, avvicinandosi alle posizioni del socialismo cinese maoista. Durante la guerra del Vietnam tenta di mantenere una via neutrale, fatto che irrita non poco gli Stati Uniti. Negli ultimi anni del suo lungo governo si allea con il Vietnam del Nord, acconsentendo anche alla costruzione di alcune basi militari di Viet Cong. Gli States non esitano a quel punto a sostenere un colpo di Stato che porta al potere il filo americano Lon Nol. Per riprendersi il potere, Sihanouk va a Pechino e stringe un patto con i cinesi e soprattutto con il gruppo rivoluzionario dei Khmer Rossi di Pol Pot. Mentre gli statunitensi abbandonano il Vietnam, in Cambogia scoppia la guerra civile tra il nuovo governo e i comunisti dei Khmer Rossi. Ancora una volta, le grandi potenze mondiali si affrontano giocando sulla pelle di stati del terzo mondo. Gli americani combattono al fianco del governo di Lon Nol, cinesi e russi sostengono Pol Pot. In cooperazione con le forze armate del Vietnam del Sud, questa settimana è stata lanciata una serie di attacchi per distruggere i santuari comunisti all'interno dei confini cambogiani. Il ruolo di coordinamento delle operazioni di terra è stato assunto dalle truppe vietnamite, mentre i nostri militari stanno gestendo le operazioni aeree. In particolare, l'attacco si concentra su un'area, quella vicina a Parrot Peak, dove ritengo che il nostro intervento sia quantomeno necessario. Come è noto, Richard Nixon, che avete sentito in questo breve estratto, dà ordine a partire dal 1969 di bombardare segretamente la Cambogia, per poi rivelare la decisione solo un anno più tardi. In quella che è sempre più una guerra fuori controllo per gli americani, le forze aeree statunitensi distruggono i cosiddetti santuari comunisti ai confini tra Cambogia e Vietnam del Sud. I caccia americani non badano ai dettagli, distruggono tutto nel raggio di chilometri, facendo terribili stragi di civili. Anche per questo drammatico evento, il governo filo-americano di Lon Nol perde consensi, mentre crescono i seguaci di Pol Pot e degli efferati Khmer Rossi. Il paese finisce preda della guerra civile. Il 7 agosto del 1973, un B-52 americano, qualcuno dice per errore, qualcun altro per una recrudescenza del conflitto pianificata dallo stesso Nixon per distogliere l'attenzione dal Watergate, sgancia 20 tonnellate di bombe sul centro cittadino della città di Neak Luong. È l'evento che Pol Pot aspettava per lanciare la sua offensiva finale. Not me. We never lost control. marzo 1975, Phnom Penh. È la capitale della Cambogia, città di 2 milioni di abitanti, così bella da essere definita la perla dell'Asia. La città cambogiana, nel 1975, è uno degli ultimi baluardi delle truppe governative contro l'avanzata dei Khmer Rossi. Oltre a soldati ed eserciti, come in ogni guerra, il fronte del conflitto civile cambogiano è occupato da un'altra truppa di uomini coraggiosi che mettono a repentaglio la propria vita, formalmente tutelata da fragilissimi accordi internazionali. Sono i giornalisti, i cosiddetti reporter di guerra, lo sguardo del mondo sui grandi conflitti che segnano il pianeta, voci necessarie per far sì che esista un controllo su quanto accade al fronte. Tra questi coraggiosi reporter c'è anche il nostro primo personaggio di oggi. È americano, ma i suoi servizi dalla Cambogia e dal Vietnam non hanno mai risparmiato critiche alla scellerata gestione del conflitto delle amministrazioni americane, in particolare dell'amministrazione Nixon. Scrive per uno dei più prestigiosi giornali del mondo, il New York Times. Il suo nome è Sidney Schamberg. Sidney Schamberg. Schamberg è uno dei grandi reporter americani del XX secolo. Nato nel Massachusetts nel 1934, è giornalista professionista dall'età di 21 anni. Dal 1955, quando dopo aver completato i suoi studi superiori, vince una borsa di studio in legge ad Harvard e contemporaneamente ottiene il primo impiego in una rivista di Boston. I miei genitori erano di condizioni economiche molto modeste. Così quando entrai ad Harvard, probabilmente già mi vedevano con un lavoro prestigioso alla Corte Suprema. Solo che dopo 3 mesi capii che quello non era il posto per me. Così per prendermi un po' di tempo e capire bene cosa volessi fare della mia vita, mi arruolai nell'esercito per un breve periodo. Ho fatto l'addestramento in fanteria, dopo il quale però mi sono candidato per un posto nell'ufficio stampa dell'esercito. Fu veramente formativo. Come reporter dell'esercito, Schamberg conosce numerosi giornalisti che seguono direttamente le vicende militari della Guerra Fredda e si appassiona al mestiere. Dopo il congedo, presenta il suo curriculum al New York Times e viene preso poco dopo. È il 1959. La carriera di Schamberg al New York Times è molto rapida, perché il giovane reporter ha grande talento. Inizialmente Sidney lavora come redattore negli uffici del giornale, poi viene spostato a fare ciò che ama, il lavoro sul campo, per le strade, a contatto con il mondo. Il Vietnam del Sud è di nuovo sotto attacco. A volte è aggredito da singoli assassini, a volte da bande armate organizzate, altre volte ancora da divisioni militari equipaggiate. I confini con l'India e con la Cambogia sono stati ripetutamente violati e la gente pacifica del Laos aggredita brutalmente, la loro indipendenza messa a rischio. Si tratta di aggressioni brutali di uomini e donne uccisi a casa propria e non sul campo di battaglia. Nel 1961, John Fitzgerald Kennedy apre di fatto la cosiddetta guerra del Vietnam, intensificando massicciamente la presenza americana nel sud-est asiatico. Schamberg viene inviato in Indocina per seguire il conflitto. Ho seguito per diversi anni il conflitto vietnamita, dall'interno del paese, ma soprattutto dai paesi limitrofi, quelli non direttamente coinvolti nel conflitto, la Thailandia, l'India, le Filippine. Non mi piaceva granché, però, perché naturalmente avrei preferito osservare direttamente e raccontare senza filtri. Dopodiché, nel 1970, fu inviato in Cambogia. Nel 1970, infatti, Nixon apre una nuova stagione del conflitto americano nel sud-est asiatico, attaccando la Cambogia. Il New York Times spedisce proprio Schamberg a seguire il conflitto. Si trattava di un paese in condizioni difficili, perché aveva da poco un governo filoamericano, ma era sull'orlo della guerra civile, perché c'erano i Khmer Rossi che stavano organizzando un'azione di guerriglia per conquistare il paese. In Cambogia, però, ho fatto l'incontro più importante della mia vita, con l'uomo indubbiamente destinato a cambiarmela. In Cambogia, Schamberg necessita di un interprete, possibilmente pronto a tutto, per potersi muovere con disinvoltura a caccia di scoop. Il giornalista americano, infatti, vede in maniera fermamente negativa l'intervento di Nixon nel paese asiatico e vuole andare a fondo con la sua inchiesta giornalistica per smascherare contraddizioni e problemi di quella che gli pare a tutti gli effetti un'aggressione. Il New York Times gli trova l'interprete che fa al caso suo, un giornalista cambogiano scaltro e coraggioso, che parla fluentemente inglese e francese, oltre alla lingua Khmer, la lingua cambogiana. Il nome di quest'uomo, che lascerà un segno indelebile nella vita di Schanberg, è Diet Pran. Diet Pran. Io e Pran abbiamo formato da subito una squadra vincente, perché lui non era un semplice interprete. Era un reporter determinato e quasi ossessionato dalla verità, almeno quanto lo ero io. Le nostre motivazioni venivano da radici diverse, però. Lui era semplicemente convinto che il resto del mondo dovesse sapere quello che il suo popolo stava passando. Questa era la sua missione. Quando Diet Pran diventa interprete di Schanberg ha 28 anni. È nato infatti il 27 settembre del 1942 a Siem Reap, poco distante dal famosissimo e spettacolare tempio Angkor Wat, una delle meraviglie del mondo moderno. Figlio di un pubblico ufficiale, Pran da adolescente è uno studente precoce e ricettivo. Impara bene il francese a scuola e l'inglese come autodidatta. Diventa inoltre un ottimo fotografo. A 22 anni viene assunto dall'esercito americano come interprete e lavora per lungo tempo tra il suo paese e il Vietnam. Poi lascia per inseguire il sogno di diventare giornalista. Non ci riesce e sbarca il lunario facendo il receptionist in un albergo e lavorando come interprete per il cinema in alcune produzioni occidentali realizzate in Cambogia. Quando Nixon decide di bombardare la Cambogia, Pran viene accoppiato a Schanberg e inizia a raccontare al mondo le drammatiche vicende del suo paese. Il primo scoop che i due riescono ad allestire insieme risale all'estate del 1973. Un B-52 americano rade al suolo la città di Neak Luong, nel nord del paese, facendo strage di civili. L'esercito americano fa di tutto per mascherare la verità e trasmetterne alla stampa una diversa. Schanberg, grazie a Pran, riesce a raggiungere la città autonomamente, via fiume. I due documentano tutto. Vengono fatti prigionieri, ma è troppo tardi. Il New York Times, nei giorni successivi, sbatte in prima pagina la mostruosità commessa dall'esercito americano. È stata la prima volta che ce la siamo vista brutta insieme. Attraverso episodi di questo tipo, però, la nostra amicizia si era rafforzata enormemente. Avevamo raggiunto una grandissima intesa e siamo riusciti per 5 anni a documentare tutto ciò che avveniva in Cambogia. 5 anni. Dal 1970 al 1975. Poi però l'esercito americano lascia il paese. I Khmer rossi hanno la meglio, prendono il controllo della Cambogia. Il 10 marzo del 1975 i due si trovano proprio a Phnom Penh, la capitale, quando i rivoluzionari di Pol Pot se ne impadroniscono. Come uno tsunami, la violenza dei Khmer si abbatterà anche su di loro. Tra poco, a Destini Incrociati. Was in another lifetime. One of toil and blood, when blackness was a virtue, when the road was full of mud. I come in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Destini incrociati. Oggi vi stiamo raccontando una storia di guerra, di amicizia e di grande giornalismo. Protagonisti due reporter di guerra, uno dei più grandi del secolo, Sidney Schanberg, e il suo interprete, a sua volta giornalista, il cambogiano Diet Pran. I due lavorano insieme per 5 anni, dal 1970 al 1975, documentando l'ambiguo intervento militare americano voluto da Nixon e la guerra civile che squassa il paese del sud-est asiatico. In questi anni la loro amicizia si cementa, per poi essere messa alla prova da un'onda d'urto devastante. Sidney, guarda, Khmer rossi! Avete appena sentito un estratto dal film Urla del silenzio di Roland Joffé del 1984. Un film che racconta l'amicizia e le vicissitudini di Schanberg e Prang dopo l'inizio del regime dei Khmer rossi. Il film racconta il tragico assedio che i Khmer rossi di Pol Pot portano alla capitale cambogiana. Dopo drammatiche ore di combattimenti e di scontri, la città capitola. Schanberg e Pran tentano in un primo momento di documentare la guerriglia. Poi però la violenza dei ribelli si abbatte anche su di loro. Sort of Diciamo che il governo sostenuto, anche da noi americani, non era stato particolarmente gentile nei confronti dei Khmer Rossi. Così questi non furono teneri nei confronti degli occidentali e soprattutto di quei cambogiani che avevano lavorato insieme a noi. I Khmer danno un ultimatum. Fuori tutti gli occidentali dal paese entro pochi giorni. Viene istituito un ponte aereo per permettere a tutti di uscire, dopodiché ci sarà il regolamento dei conti. Schamberg va all'ambasciata americana e porta il suo elenco di evacuati, Dit Pran e la famiglia. Il punto è questo. L'esercito americano stava abbandonando il sud-est asiatico. La guerra era persa. C'erano persone all'ambasciata americana, quasi tutte favorevoli alla guerra, che mi dicevano: Sid, tra poco qui, se l'esercito americano lascia, ci sarà una carneficina. Ora, quante volte abbiamo sentito nel corso degli anni dal nostro governo questa cazzata? Dalla Corea al Vietnam, fino all'Afghanistan, in tempi recenti. Se ce ne andiamo ci sarà una carneficina. Pensavo che non fosse la verità, che fosse propaganda per proseguire la guerra. Così io decisi di restare, per documentare l'inizio del regime dei Khmer. E purtroppo convinsi anche Dit, di cui avevo già il visto d'uscita, a rimanere con me. Allora, che cosa hai deciso, Pran? Vuoi restare o vuoi partire? Non lo so. Tu sei come mia famiglia, Sid. Però vedi, faccio tuo mestiere anch'io. Capisci cosa dico? La famiglia di Pran parte per gli Stati Uniti, dove Schamberg ha disposto per loro accoglienza e riparo. Tutti gli occidentali fuggono a gambe levate. Gli avvertimenti lasciano presagire una catastrofe. Schamberg e Pran rimangono. I Khmer finalmente entrano in città e inizialmente la situazione sembra stabilizzarsi. È solo apparenza. Sì, in un primo momento i Khmer sono stati accolti positivamente dalla popolazione stremata. Speravano potesse essere un nuovo inizio. In effetti era un inizio, ma di qualcosa di spaventoso. I Khmer definirono il 1975 l'anno zero, a segnare la discontinuità con il passato. Poi, proprio nei primi giorni, cominciarono a costringere le persone ad abbandonare tutto ciò che avevano in città per occupare le campagne. Era la rivoluzione agraria. Chi si rifiutava, moriva. Schamberg e Pran cercano di documentare le deportazioni. Vengono immediatamente fatti prigionieri e portati nelle campagne. Le prime avvisaglie ci arrivarono da una visita all'ospedale che facemmo subito dopo l'arrivo dei Khmer. Mentre in città si festeggiava, andammo a vedere l'ospedale cittadino e vi trovammo centinaia e centinaia di cadaveri civili. I due giornalisti, insieme ad altri reporter occidentali, inglesi e francesi, vengono presi qualche giorno dopo e portati in un campo poco fuori dalla capitale. Vengono radunati in cerchio con le mani sulla nuca, insieme ad altri prigionieri. Un colpo in fronte, secco, spietato. Davanti agli occhi del giornalista americano, i rivoluzionari giustiziano alcuni dei prigionieri. Schamberg vede la morte dritta negli occhi. Poi accade l'imprevedibile. Pran chiede e ottiene di parlare con uno dei capi della divisione Khmer presente nel campo. Gli spiega i rischi insiti nell'uccisione barbara di un giornalista americano. Ottiene una sorta di salvacondotto. Possono attraversare la città e rifugiarsi all'ambasciata francese. Qui rimangono per alcuni giorni. Poi arriva una notizia spaventosa. I Khmer Rossi vogliono tutti i non cambogiani fuori dal paese e tutti i cambogiani fuori dall'ambasciata. Il destino dei due amici sembra doversi drammaticamente separare. Schamberg tenta di procurare a Pran un passaporto falso, ma il tentativo va a vuoto. Il giornalista americano viene allontanato dal paese. Prang viene prelevato dai Khmer. Oltre alla pena enorme per il mio amico, io mi sentivo anche in colpa. Ero riuscito a fargli ottenere un visto per gli Stati Uniti e poi l'avevo convinto a restare con me, separandolo dalla famiglia. E adesso io me ne stavo andando e lui veniva deportato, quasi sicuramente verso morte certa. Dopo essere stato prelevato, fui condotto a vedere con i miei occhi, purtroppo, ciò di cui avevo sempre soltanto sentito parlare, i campi di cosiddetta rieducazione, dove i Khmer Rossi torturavano e uccidevano centinaia di migliaia di persone, quelli che venivano chiamati The Killing Fields. Un'esperienza per raccontare la quale faccio molta fatica a trovare le parole giuste. Pol Pot sta dando vita a un regime di terrore inteso a rifondare l'intera società cambogiana su base comunista e contadina. Le popolazioni delle città vengono deportate nelle campagne, vengono abolite la moneta, la proprietà, vietata la libera circolazione delle persone, soppressa l'educazione scolastica, se non quella impartita proprio nei campi di rieducazione, in cui Pran viene deportato e in cui circa 4 milioni di persone, il 25% della popolazione, perderanno la vita. I prigionieri vengono umiliati, intellettualmente, prima ancora che fisicamente, costretti ad annullarsi e a cancellare la propria personalità per poter sopravvivere, come racconta lo stesso Pran. Per sopravvivere devi fingere di essere stupido. Quello che combatteva Pol Pot era l'intelligenza, perché temeva che le persone brillanti potessero distruggerlo. I prigionieri di questi campi sperimentano i punti più bassi della natura umana, ridotti alla fame, a mangiare insetti, carcasse di animali e talvolta pezzi di cadaveri di compagni morti, torturati e seviziati, vengono sottoposti a una repressione di massa in qualche modo paragonabile soltanto all'olocausto ebraico. Dit Pran riesce a uscirne vivo, ma vi rimane per 4 lunghi anni, anni nei quali l'amico Schanberg si occupa della sua famiglia e non smette di cercarlo. Riuscirà a trovarlo nel 1979. Destini incrociati. Dit Pran e Sidney Schanberg, amici, giornalisti, reporter di guerra. Le loro strade si incontrano nel 1970, quando il primo diventa interprete del secondo in Cambogia, dove Schanberg è inviato del New York Times. Nel 1975, però, si separano traumaticamente. Schanberg viene espulso dal paese dopo l'arrivo dei Khmer Rossi. Pran viene deportato nei campi di rieducazione pensati dal dittatore Pol Pot, i cosiddetti Killing Fields, tragico scenario di morte per milioni di persone. Ci rimane 4 anni, mentre Schanberg tenta in ogni modo di rintracciarlo e si prende cura della sua famiglia. Una telefonata straordinaria, indimenticabile. La riceve Sidney Schanberg da un funzionario americano che lavora al confine tra la Thailandia e la Cambogia. Gli dice che un tale Dit Pran, il 3 ottobre del 1979, è giunto stremato alla frontiera thailandese, insieme a un'altra 50 di profughi cambogiani che hanno marciato disperati fino a lì. Schanberg si precipita a recuperarlo. Il regime di Pol Pot era caduto, rovesciato dall'invasione vietnamita. Ero stato rilasciato proprio in quel momento, ma ho deciso subito di scappare perché temevo che i vietnamiti a loro volta potessero considerarmi una spia. Schanberg, negli anni in cui l'amico era prigioniero, oltre a mobilitare senza successo contatti diplomatici per tentare di ritrovarlo, aveva continuato a battersi per il rispetto dei diritti umani e contro la politica del governo americano, dal suo punto di vista in qualche modo colpevole, con l'invasione della Cambogia, di avere innescato una dinamica di vendetta che aveva portato al regime dei Khmer. Credo che andare a dimischiarsi nelle faccende altrui, mascherando i propri interessi sotto le sembianze di crociate umanitarie, penso che non sia in nessun caso un atteggiamento produttivo. Schanberg, nel frattempo, vince anche il premio Pulitzer nel 1976, dedicandolo ovviamente all'amico cambogiano. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, Alla fine di ottobre del 1979, Sidney Schamberg e Edith Pran si riabbracciano in Thailandia. Poco dopo, il reporter cambogiano è a San Francisco, dove può ricongiungersi con la moglie e i figli. Quando ci siamo rivisti in Thailandia, è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Era segnato, cambiato, mal ridotto. Lo sguardo però era sempre quello, brillante, inquieto. Mi corse incontro e si gettò letteralmente tra le mie braccia, un abbraccio lungo, entrambi piangevamo. E lui mi disse: «Oh Sid, sei arrivato, sei arrivato». E io trovai solo la forza per dirgli: «Mi puoi perdonare per non averti fatto uscire?». E lui disse: «Non c'è niente che ti debba perdonare». Nel 1980, Pran inizia a lavorare come fotografo per il New York Times. Scrive 2 libri sulla sua esperienza e inizia a battersi fieramente contro i totalitarismi di ogni colore e di ogni bandiera. Nel 1984, da uno di questi, viene tratto il film Urla del Silenzio, pluricandidato agli Oscar. Nel film, Pran viene interpretato dall'attore cambogiano Aung San Suu Kyi, anch'egli un sopravvissuto al regime di Pol Pot, e vincerà l'Oscar. Nel 1996, l'attore viene ucciso a Los Angeles, a Chinatown, da 2 ragazzi che si proclamano sostenitori di Pol Pot e che vogliono vendicare l'offesa al loro giudizio portata al loro paese da Aung San Suu Kyi. Ho promesso a me stesso: se sopravviverò a questo campo di sterminio, non smetterò mai, nemmeno per un giorno, di raccontare al mondo la mia esperienza. Queste parole Pran le pronuncia nei primi mesi del 2008. È sul letto di morte. Un tumore all'intestino lo sta uccidendo. Pran però si fa intervistare dal suo giornale, dal New York Times, e rilascia un'ultima, straordinaria testimonianza della sua terribile esperienza, commuovendo l'opinione pubblica. Schamberg è lì, accanto a lui. Ho sempre voluto salvare vite umane, incluso la mia, naturalmente. Ma vedete, per i cambogiani il corpo è solo una casa in cui dimora lo spirito. Ora la mia casa è diventata inospitale, come divorata dalle termiti. Penso sia giunto il momento di abbandonarla, serenamente. Edith Pran muore il 30 marzo del 2008. Schamberg lo congeda con queste parole. Pran è stato un grande giornalista, un lottatore e un fratello. Ha combattuto per la sua vita in Cambogia e lo ha fatto adesso contro il cancro con la stessa forza. Anche la sua vita è un esempio che nessuno dovrebbe mai dimenticare. Io di certo non dimenticherò quella compostezza buddista, il coraggio e quella spiritualità ottimistica che l'hanno reso per me come e più di un fratello. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.